ha detto: senti, vi voglio fare una domanda, ma lei, ho detto, è un po' drogato. Ho detto: no, io no. Allora fagli una domanda senza la droga. No, no, figurati. Ci legge drogato, ci legge drogato. Com'è? Com'è? Tu sta fa? Fuma, fuma, fuma, quanta gente se la fuma, quanta, tanta gente se la fuma, tanta, chi è che se la fuma, chi è che se la fuma, orranda se la fuma, quanta gente se la fuma, quanta gente, tanta gente se la fuma, tanta gente, chi è che se la fuma, chi è che se la fuma, bastardi, pezzi di merda, sì. I soci stanno dentro 6 anni per un po' d'erba, per una zanna, pezzi di merda, fanno. Mi perdo se l'impianto pompa palla. Sto appollaiato in un angolo aspettando rata. Dalla lamela passa. Il locale mi sembra abbastanza affollato per farla, quindi falla. Fanculo fini, questa è la city. L'aria che tu politicante di merda di certo non respiri. Tra scassamenti di cazzo continui sbirri. Io me ne fumo un'altra. Quanta, quanta gente se la fuma. Mamma dama caga il ca. Che metà basta, denuncia chi non rinuncia al TH. Ci marca stretto quando bracca, ma qua in barca acqua perché Oranda non collabora. Non parla, non canta, e se lo fa è solo per porre una domanda. Quanta, quanta gente se la fuma. La mia gente fuma, fuma. Minchia se fuma, fuma. Parlo di zarsti, scank che fan paura. Quelle canne che la legge accusa di essere il primo passo verso la puntura. Non è crack, sai certo. Non è il trip che ti fotte il cervello. Non è white, solo ganja. Adesso fai una zanca grande quanto un monumento. Socio sai che c'è, tra i miei bro la si consuma come indiani c'è, yeah. Giù da noi dai dai te la fai una jam. Ti va bene, vengo in pace, ho anche il calumè. Ok, accendo e aspiro, ispiro. E se la fuma sai 3/4 di Torino. Non raccontarmi che col cremo mi rovino. Che minchia, respiro smog da quando ero bambino. Faccio su uno spino, mi ispiro. E cago sto cazzo di rap che porto in giro. Fa culo a tutti, io me la fumo e continuo. Legalize ganja. Io sono il primo. Quanta gente se la fuma. Quanta. Tanta gente se la fuma. Tanta. Chi è che se la fuma? Chi è che se la fuma? Urranda se la fuma. Quanta gente se la fuma. Quanta gente. Tanta gente se la fuma. Tanta gente. Chi è che se la fuma? Chi è che se la fuma? Pure mio nipote è drogato, drogato, drogato, drogato, drogato.